America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da Roma. Mario Platero, sono in Italia di ritorno dalla missione asiatica di Barack Obama. Come vi dicevo ieri, lo scenario politico internazionale si sposta in Europa con il negoziato di Vienna per la denuclearizzazione militare dell'Iran, per evitare cioè che progetti civili siano usati per costruire bombe atomiche. Negoziato importante anche per il contesto medio orientale, perché ogni giorno abbiamo notizie orrende. Obama, notizia di ieri sera, che ripete no al negoziato. Ecco, io credo che sia in questo contesto di grave crisi medio orientale che dobbiamo collocare anche il negoziato di Vienna. Con me ai microfoni di America 24, Paolo Valentino, il Corriere della Sera. In genere ci sentiamo a New York, oggi siamo a Roma. Paolo sta partendo proprio per Vienna per seguire il negoziato. Buongiorno Paolo. Buongiorno Mario. Allora, negoziato fra le potenze e l'Iran. Diciamo, l'atmosfera di fondo è un'atmosfera ottimistica. Io ho incontrato i funzionari alla Casa Bianca, mi hanno detto 95% è fatto. È vero o non è vero? È vero, siamo alla stretta finale, l'atmosfera è ottimistica. Come sempre succede in questi casi, il diavolo si nasconde nei dettagli. In questo caso sono più di qualche dettaglio, ci sono dei problemi sul numero di centrifughe che gli iraniani dovrebbero avere il permesso di usare, c'è la durata dell'accordo, gli iraniani vorrebbero un accordo breve, massimo 3 anni, gli americani chiedono un accordo più lungo. Il punto centrale, come hai ben detto, è di inibire una capacità nucleare militare dell'Iran. Ne discuteranno a lungo. Ovviamente teniamo anche presente che ci sono degli elementi di politica interna molto forti, nel senso che gli iraniani, o meglio questo governo iraniano, ha bisogno di un accordo per vincere la partita contro i duri del regime, i guardiani della rivoluzione che sono contro ogni intesa con l'Occidente. Gli americani hanno bisogno di questo accordo perché un accordo con l'Iran farebbe rientrare Teheran nel grande gioco medio orientale. Sono tutte questioni sul tappeto che potrebbero essere risolte. Andiamo al 24, che è la data ultima, lunedì prossimo. In ogni caso l'impressione generale è che non si arriverà a un fallimento, cioè se mancasse proprio il metro finale per raggiungere il traguardo, probabilmente il negoziato verrebbe ancora prolungato. Ecco, Paolo, io farò l'avvocato del diavolo, perché qui l'Iran ha promesso mille volte, come tu dici, vorrebbe soltanto un periodo molto breve a 3 anni, e la mia provocazione è che dell'Iran e di Teheran, proprio perché ci sono elementi di estremismo nel paese, non c'è da fidarsi. Dunque, non 3 anni, ma sarebbe importante avere un accordo molto più lungo. Ecco, qual è la tua sensazione su questo? C'è da fidarsi o no? Perché se poi questi di nascosto continuano a costruire la bomba atomica è un gran problema, perché significa che l'Arabia Saudita, il grande nemico dell'Iran, si deve anche lui armare e così via, così via. Intanto ricordiamoci che se c'è un accordo dovrà essere un accordo ampiamente verificabile e dovrà essere un accordo in base al quale l'Iran accetta il regime dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica e quindi accetta di sottoporsi all'ispezione e ai controlli, primo. Secondo, non c'è dubbio, c'è una partita in corso interna al regime iraniano dove questo governo, quello di Rouhani e di Zarif, è sicuramente aperturista, vuole un'intesa con l'Occidente, ma questa fazione del sistema politico italiano è osteggiata dai guardiani della rivoluzione che non vogliono assolutamente nessuna intesa. Ecco, lo scenario più ampio, uno scenario medio orientale complesso, l'ISIS complica la situazione, alcuni dicono che l'Iran potrebbe aiutare per combattere l'ISIS, ma poi questo crea dei problemi con l'Arabia Saudita. Ecco, lo sblocco, se ci sarà, di questo accordo nucleare, come può influire sullo scenario medio orientale, consentendo di appoggiarci all'Iran per contenere l'ISIS senza irritare l'Arabia Saudita? Ricordiamolo, l'ISIS è fatto di sunniti estremisti, l'Arabia Saudita è sunnita e teme, odia gli sciiti dell'Iran. A mio parere un accordo che restituirebbe l'Iran, se vogliamo, alla comunità internazionale sarebbe un vero game changer, perché non c'è dubbio che l'Iran possa aiutarci nella lotta contro l'ISIS, ma poiché l'Arabia Saudita è un paese molto ragionevole e poiché noi sappiamo anche che esiste in questo momento un grande scontro interno alla famiglia sunnita, Io credo che un accordo e quindi il reinserimento dell'Iran nel grande gioco medio orientale porterebbe a più miti consigli anche l'Arabia Saudita, ci sono già stati segnali in questo senso, che ovviamente a quel punto potrebbe anche considerare una forma di dialogo e di cooperazione insieme all'Iran, perché in fondo il nemico è lo stesso. Sciiti o sunniti moderati hanno l'ISIS davanti come vero avversario. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee, seguiteci su america24.com, su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Insomma, quella di oggi richiede un contesto, diciamo, matematico. Variabile numero uno: sapete che dopo il voto del 4 novembre la marijuana è legale in molti stati americani. Come dire, forse si apre la strada per una legalizzazione nazionale. Variabile numero due: una graduatoria di ieri. Bob Marley, la star giamaicana globale del reggae, grande consumatore di marijuana, è al top della popolarità in termini di riconoscimento del suo nome. Le due variabili formano un'equazione: M di marijuana più M di Marley uguale a che cosa? Uguale al business, a un nuovo marchio, Marley Natural. Anzi, marijuana Marley Natural. E la notizia qual è? Privateer Holdings, un fondo americano di private equity, ha firmato un accordo con gli eredi di Marley per lanciare un nuovo brand. Bene, oggi abbiamo parlato di molte cose, di ostaggi decapitati, di attentati con morti in casa di Dio, dei tentativi di contenere una proliferazione nucleare, confini tra il giusto e l'ingiusto, tra il bene e il male, tra il legale e l'illegale. C'è da auspicare davvero una redenzione collettiva. E allora, per bocca dell'icona Bob Marley, The Man in the News, invochiamola. Redemption Song di Bob Marley, la canzone della redenzione. Won't you help to sing these songs of freedom, 'cause all I ever redemption songs, redemption songs, redemption songs. Da Roma è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.